E torniamo in diretta dai microfoni di Radio Onda Rossa. Con noi al telefono Roberto, che gestisce il sito bellaciao.org. Roberto è in diretta con noi da Parigi. Pronto, mi senti? Sì. Sento bene tu? Sì, ti sento bene, va benissimo così. E niente, ti abbiamo contattato per parlare appunto di quello che è successo ieri a Parigi, e ne abbiamo dato velocemente notizia questa mattina per le notizie che siamo riusciti a trovare, insomma, su Indymedia Parigi, dell'omicidio di questo compagno, di questo ragazzo di 18 anni, per mano di tre skinhead, per quello che abbiamo letto. Sì, guarda, le informazioni sono, puoi capire, anche capire, sono un po' non confuse ma abbastanza recenti. Infatti i compagni, se non ci sbagliamo noi, a 19 anni è stato aggredito all'uscita di un negozio che è vicino alla stazione Saint-Lazare, e da tre skinhead che manifestamente avevano già cominciato a provocarlo all'interno di questo negozio e l'hanno aspettato fuori con dei rinforzi. Ci hanno chiamato altri fascisti e gli hanno fatto una guada, insomma. L'hanno picchiato soprattutto con un pugno, come si dice qua in Francia, mi sembra che in Italia la stessa cosa, un pugno americano, cioè quelle cose che si mettono sulla mano in ferro per fare un po' più male. Purtroppo. Ti senti? Sì, ti sento. Ah, scusa. Purtroppo il compagno è caduto, ha picchiato la testa contro un palo in ferro e ha perso conoscenza immediatamente. I soccorsi sono arrivati e la sua situazione era gravissima. L'hanno portato in ospedale e purtroppo nella serata, un pochettino più tardi, l'hanno dichiarato morto cerebrale. Voilà. Senti, la notizia, abbiamo visto appunto, è stata data anche da quelli che si firmano, i compagni e le compagne di Clément, e l'abbiamo letto su Indymedia, però immagino che adesso, insomma, in Francia compagni e compagne, la sinistra in generale, discuta, insomma, di iniziative. Ma guarda, questo è un comunicato un po' anonimo. In ogni modo bisogna precisare che questo compagno è membro del Front de Gauche, il fronte di sinistra qua a Parigi, e che ci sarà anche una manifestazione questo fine pomeriggio alle 18:30 nella piazza mitica di San Michel, nel quartiere latino. Lì ci si ritroverà un po' tutti, penso. Dovrei dire anche una cosa: questo è il risultato comunque di una campagna che dura già da mesi qua a Parigi, con soprattutto le manifestazioni che ci sono state contro la legge che permette di sposarsi per gli omosessuali, dove in queste manifestazioni organizzate per tutta la destra e l'estrema destra già moltissimi incidenti e aggressioni ci sono state, e pensiamo che giustamente fascisti ultimamente si sentono abbastanza, diciamo, tranquilli per poter aggredire, cosa che fanno in modo abituale, ma questa volta è stata proprio una cosa molto violenta, no? E quindi purtroppo questo compagno è morto. Senti, appunto, ci raccontavi di questo clima legato appunto alle manifestazioni di cui abbiamo letto qua dall'Italia, appunto delle destre cattoliche, la destra fascista, neofascista, eccetera, insomma, che ci sono state contro il matrimonio per tutti, così come, insomma, lo chiama la legge francese. E non lo so, questo clima come viene restituito anche sui media francesi, come si parla di questo omicidio fascista di ieri? Guarda, nei media naturalmente è uscita la notizia, è uscita unicamente stamattina un po' dappertutto. Ieri sera era uscito unicamente un comunicato di un consigliere municipale qua a Parigi, e c'era unicamente un piccolissimo articolo su un sito di un quotidiano. E quello che noi abbiamo sentito soprattutto è che ieri sera i giornalisti erano molto molto paura di dire la verità, ecco. cioè, hanno immediatamente capito che la storia potrebbe sfociare in qualche cosa di abbastanza pesante. Da tantissimo tempo che non succede queste cose, non è successa questa cosa a Parigi, e la tensione è proprio alta. E anche questa mattina abbiamo avuto delle discussioni con altri giornalisti per Twitter, e abbiamo capito che erano molto esitanti a dire chiaramente che erano stati dei fascisti. Cercano un pochettino di coprire dicendo che, certo, non tutti i giornalisti, ma che sono soltanto dei skinhead senza affiliazione politica, ma in effetti sono membri di un gruppuscolo, un piccolo gruppo di neofascisti abbastanza conosciuti qua a Parigi, che hanno dei legami con gli identitari, un po' per fare un paragone in Italia con Casa Pound. Sì, e fra l'altro, insomma, l'immagine che la stampa internazionale, almeno quella che è arrivata in Italia, ha restituito delle manifestazioni a cui facevi riferimento prima, dentro il cui clima tu inquadri anche questo omicidio di ieri, il quadro della stampa invece che ne dava era sì manifestazioni di destra, ma come dire, molto pacate, molto pacifiche, molto ragionanti, non si usava mai ovviamente la parola fascista, ecco. Infatti qua in Francia, non solo a Parigi, il termine fascista è usato pochissimo, fa paura a tutti, ma insomma direi piuttosto che è un'ipocrisia incredibile. C'è una collaborazione, forse è un termine un po' vecchio, ma una collaborazione di classe, cioè politica, dove in particolare il partito più grosso, dove ci sono i militanti più numerosi, è il Front Nazionale, che anche questa mattina ha dichiarato che non aveva niente a che fare con questo omicidio, ma in effetti ci sono stati tantissimi casi proprio ultimamente di neofascisti che sono membri di questo partito, che si fanno fotografare con le svastiche, con le bandiere hitleriane, con il saluto romano, insomma è un po' il classico. Per precisare, in queste manifestazioni per Mariage Putus, certo la stampa in borghese ha cercato di minimizzare gli incidenti che ci sono stati alla fine di ogni corteo e la presenza dei neofascisti. Questo per una scelta, una posizione politica, dove molti quotidiani sono contro questa legge. Però non bisogna dimenticare che alla fine di ogni manifestazione organizzata dalla destra cattolica ci sono stati dei scontri abbastanza violentissimi, cioè da tanto tempo che non si vedono queste cose qua, soprattutto qua a Parigi, ma anche a Lione e in altre città in Francia. E questi scontri hanno sempre stati organizzati da tutti i gruppi neofascisti che ultimamente sono, come potrei dire, sono veramente tranquilli, si fanno intervistare, ci sono anche i dirigenti che a viso scoperto sono sulla televisione o si fanno intervistare anche sulla radio, e si sentono veramente a loro agio con molti sostegni, ecco. Senti, fra l'altro, insomma, mi segnalano proprio in questo momento che l'organizzazione della Jeunesse Nationaliste Révolutionnaire, non so se l'ho pronunciato bene, a cui fanno capo, insomma, queste tre che hanno ammazzato ieri questo compagno, in Italia ha i suoi legami politici, diciamo, più stretti con Casa Pound, ci risulta. Ma infatti quello che ti stavo dicendo prima. Sì, infatti. La faccia francese, insomma. Sì, cioè, però non bisogna dimenticare che non sono gli unici, questo è giusto un gruppetto, ma ce ne sono tantissimi altri. Hanno questa tattica di dividersi in molti sigle differenti per la semplice ragione che sono da un po' di settimane sulla minaccia di essere messi fuori legge. Soprattutto, come dicevo prima, a causa degli scontri e delle manifestazioni, delle minacce di morte e delle aggressioni che ci sono state intorno e durante le manifestazioni tra il marge di Tusa, quindi ci sono altri gruppi che sono minacciati di essere messi fuori legge, quindi hanno questa tattica di creare molti gruppettini in modo tale di poter continuare la loro azione nefasta. Senti, tornando al fatto di ieri, pensate che l'incontro sia stato casuale o che l'abbiano seguito, insomma? Hai ragione di fare questa domanda, perché il compagno morto era un compagno che era molto ingaggiato nell'antifascismo. Allora, cioè era molto visibile come antifascista, vuoi dire? Esatto. E quindi ci domandiamo se è stata una cosa proprio causale, cioè un incontro purtroppo mortale, come si dice, o è stato un agguato proprio organizzato. Questo per il momento non abbiamo ancora una confermazione, però abbiamo un dubbio molto molto grosso, considerando che chiaramente anche personalmente ultimamente ho avuto delle minacce nominative sul nostro sito, visto che il nostro sito chiunque può pubblicare, la moderazione arriva più tardi, che sia gli articoli che i commenti. Sul nostro sito sono arrivati dei commenti dove mi hanno minacciato, cioè con il mio nome, il mio prenome, cioè cognome, nome, mi hanno minacciato di morte, mi hanno minacciato di aggressione. Quindi, cioè non è, quindi ti posso dire che non sono il solo, ci sono tantissimi altri compagni che sono minacciati sia a livello di internet, sia a livello anche, ho saputo, anche a compagni minacciati telefonicamente. Per questo che cerchiamo di capire meglio, però, se per caso il risultato sarà che è stato un agguato organizzato, non ci stupirebbe per niente. Va bene, noi, se non vuoi aggiungere altro per il momento, ti ringraziamo e magari rimaniamo di risentirci nel tardo pomeriggio, visto che oggi c'è questa iniziativa alle 18. Sì, 18:30, quindi io e altri compagni saremo presenti, effettivamente potremo fare un contatto come questo. Va bene, quindi rimaniamo insomma per il GR della sera di Radio Onda Rossa di riaggiornarci sulle iniziative appunto a Parigi per l'omicidio fascista di questo compagno avvenuto ieri pomeriggio. E ti ringraziamo. D'accordo. Per la disponibilità. Di niente. Ciao. E a tutti i compagni. Ciao. Ciao. J'attends 10 000 anges, ne sont pas descendus.